Riesco. Niente, andiamo Va avanti. Andiamo avanti dicendo che ti ho una sorpresa per te. Sì. La cantante Milva. Sì. Il titolo è Sono felice. È di Ron. Di qualcosa tua. Dirige Vincio Tempera. Bravo. Milva! Milva, Milva, Milva, Milva. Chiedo scusa. Andiamo al centro. Ciao. Che eleganza, strepitosa proprio. Ti lascio in buona compagnia. Visto che Johnny è stato bravissimo, comunque io ribadisco che Milva canta Sono felice di Ron, dirige l'orchestra Vince Tempera, canta Milva. Un attimo perché c'è un po' di bagaglio. È la classica canzone allegra dove si può sorvolare. Ci vorrebbe un po' di atmosfera veramente. Ecco, ci vorrebbe un po' di atmosfera e un po' per cortesia di comprensione, tolleranza, perché voi non sapete quanto sia difficile concentrarsi, cantare in un ambiente come questo e poi con 1,5 miliardi di persone. Vi prego, vi supplico. Davvero? Grazie. 1,5 miliardi, ti ha spaventato, vuoi andare a casa? Visione. Perché ti riporti indietro? Ok, grazie. Sono felice, Milva. Questa sera è domenica, non mi va proprio d'uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello con i capelli rossi, non mi ricordo il suo nome. Come sono felice, sono felice. Lo so che non è facile in questa vita scoprire che sei felice, ma ho quasi paura a affrontare il mondo quando lui mi guarda negli occhi. A volte mi viene voglia di saltargli addosso, giocare con lui, parlare della nostra vita. E magari lui è lì che sta guardando la partita e con la testa è così lontano ma così vicino a me. A volte lui se ne va via, non torna neanche a dormire, mi lascia qui da sola, mi sembra di che la vorrei finire e sento in un minuto tutte le donne del mondo che hanno bisogno di aiuto ma non lo sanno dire e fanno finta di non capire come me in questo momento che sono felice. Giorno picchierei la testa per farmi sentire, la notte gli strapperei le ali per non farlo volare, mentre aspetto il suo corpo e le sue labbra amare, mi appartiene anche quando si addormenta sul divano. A volte lui se ne va via, non torna neanche a dormire, mi lascia qui da sola, mi sembra di impazzire, tanto che la vorrei finire e sento in un minuto tutte le donne del mondo che hanno bisogno di aiuto ma non lo sanno dire e fanno finta di non capire come me in questo momento sono felice. Ah, ah, ah. che sono felice. Grazie, grazie a Tempera, grazie all'orchestra. Grazie mille. Questo veramente serve solo per... Volevo ringraziare Vincent Tempera, che mi ha diretto naturalmente, e l'orchestra, che è veramente straordinaria. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. A presto. Perché tutto questo scambio di aste e microfoni? Fammi capire. Ragazzi, ma se qui non ci si dà da fare, allora è finita. Perché?